già abbastanza grande, sei già abbastanza forte, ora farò di te un vero uomo. Ti insegnerò a sparare, ti insegnerò l'onore, ti insegnerò ad ammazzare i cattivi. E sempre in fila per tre, marciate tutti con me, ricordatevi i libri di storia. Noi siamo i buoni, perciò abbiamo sempre ragione, andiamo dritti verso la gloria. 16.07, Radio Onda Rossa, l'ora di buco, lavoratrici e lavoratori della scuola parlano di scuola ogni martedì dalle 16 alle 17. 06 49 17 50 se volete intervenire in diretta. Oggi parleremo in particolare di invalsi e di scioperi. Oggi era sciopero alla primaria e seguiranno domani e poi il 13 le altre due giornate indette dai COBAS scuola. Ma prima di entrare nel vivo di questo discorso, invece, ci metteremo in collegamento con il liceo Mamiani, dove questa mattina, insomma, c'è stata un'iniziativa studentesca. Decide my fate, and that's a shame. In these trembling hands, my faith tells me to react. I don't care. Maybe it's unkind that I should change a feeling that we share. It's a shame. Ed eccoci in voce dall'altro capo del telefono, uno studente del liceo Mamiani. Pronto, ci senti? Sì, pronto, ti sento. Ciao, buongiorno. Ciao. Sappiamo che stamattina è stata una mattinata un pochino più movimentata del solito al Mamiani. Ci vuoi raccontare, insomma, qual era l'occasione e poi anche la vostra iniziativa? D'accordo. Allora, stamattina, oggi 6 maggio, doveva venire al Mamiani a parlare il sindaco Marino per una conferenza sulle tendenze estetiche al Mamiani. Quando abbiamo saputo la notizia, noi del collettivo del Mamiani abbiamo deciso di lanciare una contestazione a questo sindaco, tanto perché siamo stanchi del fatto che la scuola nostra venga usata teatrino per i politici che fungono da attori, tanto per contestare invece proprio il personaggio di Marino, che in questo periodo a Roma non sta agendo in maniera deleteria, non risolvendo le vere problematiche e sgomberando e usando dei mezzi che riteniamo impropri per le problematiche appunto della città. Abbiamo avuto però una serie di problemi. Già ieri, quando l'iniziativa era stata lanciata anche sul web, molti di noi hanno ricevuto delle chiamate a personam da professori e preside con minacce di sospensione e bocciatura. Stamattina abbiamo tentato di mettere uno striscione all'entrata, ma siamo stati bloccati dalla componente docenti insieme alla preside. Abbiamo comunque deciso di continuare la contestazione e all'arrivo di Marino abbiamo presenziato la conferenza. È stata una conferenza, devo dire, molto, molto banale. Marino ha parlato di non ha parlato delle vere problematiche di Roma, e quando noi abbiamo tentato di condurre la discussione verso quelle tematiche ha risposto in maniera elusiva e anche dandoci delle risposte che a noi sembravano assurde. Per esempio, quando abbiamo citato il fatto che ci sono 260.000 posti negli stabili vuoti romani con molto meno gente che ne necessita, la sua risposta è stata che avrebbe costruito 1.200 nuove case, senza però dirci perché non ristrutturava quelle inagibili e neanche dicendoci poi a chi erano stati affidati gli appalti di quelle strutture. Durante la ricreazione abbiamo lanciato un'assemblea in cui abbiamo denunciato i fatti che erano avvenuti il giorno prima, quindi le chiamate e le minacce da parte della componente decenti, e abbiamo anche spiegato al resto della componente scolastica il perché delle nostre motivazioni. Ha partecipato a questa anche una delegazione dell'Assemblea del diritto all'abitare romano. Abbiamo fatto parlare uno dei compagni, ci ha spiegato la sua situazione, la sua difficoltà da prima senza tetto e come la sua vita è profondamente cambiata adesso attraverso l'occupazione della casa. L'assemblea si è conclusa in pochi minuti, però siamo riusciti a mandare un messaggio all'intera componente studentesca e pensiamo comunque sia una giornata molto positiva per noi studenti del Mamiani. E c'è stata quindi partecipazione, insomma, anche da studenti e studentesse non del collettivo? Sì, la partecipazione è stata ampia. All'assemblea hanno partecipato quasi l'intera componente degli studenti, che erano molto partecipi e attivi. Senti, avete insomma discusso anche di come proseguire questa lotta, diciamo, sia interna per gli spazi di agibilità degli studenti che anche invece all'esterno, intersecandovi con altre componenti, insomma ci sono anche chiamate importanti, quella del 12, quella del 17 in questo mese. Sì, esattamente, noi parteciperemo con la realtà studentesca sicuramente al corteo del 12 e anche all'assemblea di costruzione di questa. La lotta internamente a scuola adesso avrà anche altre vertenze, come per esempio quella sugli invalsi, quando proprio questa domenica, questo sabato, avremo un presidio davanti al MIUR per contestare quel test che noi riteniamo sbagliato, che per tutta la realtà studentesca in generale, ma in realtà per l'intero istituto. Senti, il test sarà il 13, se non sbaglio, nelle esatto, scuole superiori. Sì. Voi avete deciso una strategia collettiva contro le invalsi? Scusi, non ho sentito. No, dico, che farete il 13, il giorno dell'Invalsi? Avete già deciso? Allora, noi abbiamo lanciato una contestazione a livello romano, ma anche a livello italiano. Abbiamo già fatto una serie di iniziative con cali di striscioni da varie parti di Roma. Il 10 appunto ci sarà questo presidio e pensiamo di boicottare, pensiamo che l'interesse tuo boicotterà gli Invalsi, mentre noi rimarremo fuori scuola facendo un presidio durante la giornata. Benissimo, allora magari ci risentiamo, perché come dire, insomma, il boicottaggio all'Invalsi interessa molto anche a noi, insomma. D'accordo, grazie mille. Grazie a te, ciao. Ciao. Ligastelli, diciamo romani, sono un ricordo dei tempi lontani. Che pannacce con Peppe Orighetto se piava, diciamo, er tramvetto. Lo vedi, ecco Marino, la sagra c'è dell'ua, fontane che danno vino, quanta abbondanza c'è. Appresso c'è via Genzano, corpito de Guardano, s'annamo a divertì, nanni, nanni. Guarda che sole, che sortito nanni, che profumo de rose, de garofali e pensè. Castelli, so a così, guarda Frascati che tutta un sorriso, una delizia, un amore, una bellezza da incantare. È sera e già le stelle te fanno un manto d'oro. E le belle granelle se mettono a cantare. Se sente e lo stornello, raccogliamo l'assist dello studente del Mamiani per parlare dell'argomento del giorno, ovvero le prove Invalsi. Chi ci ascolta probabilmente conoscerà che questo argomento, perché ogni anno in questi periodi a maggio ne parliamo e diciamo i contenuti sono sempre gli stessi, ovvero le prove Invalsi sono quei test, quei quiz che vengono somministrati, si dice così, a tutti i livelli delle scuole italiane per non si sa bene cosa. per misurare, sì, per valutare, per misurare. E quest'anno c'è una piccola differenza rispetto agli anni passati, perché vabbè, a parte è cambiata il capo dell'invalsi, no? Le vicissitudini portano questi capi dell'invalsi ad avere delle come dire, vita breve, ed è stata sostituita attraverso una selezione che è un po' particolare. Una rosa di saggi ha scelto una rosa di nomi, e in questa rosa di nomi il ministro ha scelto il nome, quindi diciamo è una nomina comunque politica, anche se mascherata da, come dire, saggezza. E l'altra novità è che è stata abolita una prova invalsi in prima media. Probabilmente era piuttosto inutile, è stato, come dire, valutato all'interno dell'invalsi del ministero, che poiché i ragazzi all'elementare lo fanno in quinta elementare, scusate, si dice ancora elementari? Primaria. E poi in terza media viene comunque fatto l'invalsi all'interno dell'esame finale, e farlo anche in prima media era veramente una, come dire, una, è un po' ridondante. Una persecuzione. Sì, altrimenti detta persecuzione. E per il resto rimane. E l'altra piccola novità è che doveva entrare come prova, come test, diciamo, pilota all'ultimo anno all'anno della maturità, della secondaria, di secondo grado, ma per quest'anno non c'è traccia, quindi è stato rimandato all'anno prossimo questo eventuale inserimento della prova invalsi anche per il quinto anno dei licei e delle scuole superiori. L'attuale situazione quindi è piuttosto statica, nel senso che gli insegnanti sono obbligati dai dirigenti a somministrare queste prove e anche a correggerli, tutto ovviamente gratuitamente. E la norma che impone questo è piuttosto scura, perché il contratto, come tutti sanno, non è stato minimamente toccato, è bloccato da ormai 8 anni, e quindi è un lavoro che viene fatto in più a carico dei docenti e delle docenti, e soprattutto la grossa questione è che l'obiettivo finale di questo test è piuttosto ambiguo, perché inizialmente doveva misurare il livello di apprendimento, le conoscenze e anche le competenze degli studenti in tutti gli ordini di scuola in Italia. In realtà è stato scoperto, molto, come dire, andando un pochino a fondo, che serviva per dare voti non soltanto agli studenti, o non principalmente agli studenti, quanto ai docenti, alle docenti. E quindi c'è stata una reazione non collettiva, portata avanti sostanzialmente da un solo sindacato, i COBAS, mentre gli altri invece hanno accettato tranquillamente questa situazione. Le critiche sono piuttosto, come dire, consistenti, perché questi test li abbiamo esaminati negli anni passati, quindi non ci ritorneremo, ma sono test a risposta multipla di italiano e di matematica esclusivamente, quindi dove bisogna dare delle risposte secche, e attraverso queste risposte misurare il livello di competenze dei nostri studenti, da un lato, misurare il livello di insegnamento, e anche quindi formare una graduatoria degli istituti, e quindi classificare gli istituti di prima fascia, serie A, quelli di seconda fascia, per dire, fino agli ultimi. E la contestazione è piuttosto evidente, perché le prove, che sono di derivazione americana, anglosassone, e quindi diciamo ampiamente sperimentate in quei paesi, di fatto sono catastrofiche per fare una misurazione, perché bisogna capire quali contenuti e quali vengono inseriti, quali competenze si vanno a misurare, e crediamo proprio che questa tipologia, un'unica prova, per quanto anche se fosse quella perfetta in assoluto, non sia minimamente in grado di misurare assolutamente nulla. E, diciamo che c'è stata molta attenzione mediatica, diciamo il mese di maggio è il mese degli invalsi, il mese Mariano è il mese degli invalsi nella scuola, e la protesta ha una eco piuttosto ampia. Gli studenti appunto si inventano qualcosa, gli insegnanti in realtà le svolgono così senza colpo ferire. Però come dire, si sta diffondendo la reale portata, la reale intenzione che c'è dietro questi test, ovvero spacciare questi test per l'introduzione finalmente del merito nella nostra scuola, come nelle altre parti della pubblica amministrazione. Di fatto viene introdotto questo modello americano che serve a sostanzialmente a inserire il privato dentro la scuola, a giustificare i tagli all'interno del sistema istruzione pubblica, e addirittura è talmente così sfacciato questi obiettivi che la Fondazione Agnelli, che sta dietro, che è una degli enti che stanno dietro le prove invalsi e questa idea di finta di meritocrazia, di fatto ha fatto qualche passo indietro, dicendo non che sono sbagliata la valutazione, il merito all'interno del sistema pubblico, istruzione in particolare, ma che probabilmente la comunicazione è stata sbagliata, e quindi è passata l'introduzione di questi test, di questi quiz, come un volere entrare nel merito del lavoro dell'insegnante, e quindi la reazione degli insegnanti, come dire, è stata quasi giustificata dal fatto che non è stato ben comunicato. E quindi l'ultimo rapporto della Fondazione Agnelli usa dei termini che fanno riflettere. Leggo: usare gli strumenti di valutazione per assegnare premi non funziona ed è controproducente, perché spinge a comportamenti opportunistici o manipolatori. Ovviamente mettono anche il termine in inglese, quindi teaching to the test o cheating, perché questo significa che i docenti passano i compiti agli studenti, gli studenti copiano, oppure vengono manomessi i risultati, visto che chi corregge è chi dovrebbe essere valutato. E la presenza della prova invalsi incorporata nell'esame di terza media crea problemi, anche questo dice la Fondazione Agnelli, e in effetti noi sappiamo che gli insegnanti di scuola media che fanno l'esame trovano, come dire, del tutto avulsa il test obbligatorio di italiano e matematica all'interno delle prove già piuttosto numerose dell'esame di terza media. Peraltro è l'unico, lì in questa circostanza è l'unico momento in cui il test fa media e quindi entra pesantemente nella valutazione complessiva dello studente. Altri passaggi: servirebbe armarsi di pazienza e dar vita a un ampio dibattito nazionale per costruire ciò che ancora davvero manca, il consenso degli insegnanti. Quindi Fondazione Agnelli individua nella mancanza del consenso degli insegnanti un vulnus per questa cattiva nomea che hanno i test invalsi. Ai docenti non è stato spiegato chi e che cosa si voglia davvero valutare con questi strumenti, sulla base di quale idea di scuola. La resistenza ideologica e corporativa di una buona parte dei sindacati ha fatto poi il resto. Beh, questi sono i temi che sono oggi sul piatto, e tra un po' ne parleremo con un compagno dei COBAS. Tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio è stata nominata dalla ministra Giannini la nuova presidente dell'Invalsi, Anna Maria Aiello, con un curriculum, come si direbbero i giornalisti seri, di tutto rispetto. fra l'altro è docente di qualche cosa che adesso vi dico. Ah sì, è direttore del Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione della Sapienza. E molte pubblicazioni sulla questione dell'apprendimento, eccetera, eccetera, eccetera. E il 4 maggio, quindi di domenica, non avevo fatto caso a questa cosa, mentre noi stavamo insomma in altre faccende più allegri e affaccendati, ha scritto una lettera ai docenti proprio per lanciare insomma quello di cui stiamo parlando. Non è molto lunga, però insomma vale la pena di leggerne alcune parti. Voglio esprimervi il ringraziamento di tutte le persone che lavorano nell'istituto, il mio personale, per il lavoro che in tutti questi anni avete svolto nel rendere possibile la valutazione. Siete riusciti a dare vita ad un sistema con considerevole impegno, frutto di una serietà professionale di cui il paese tutto deve esservi riconoscente. Infatti, bloccando i contratti e gli scatti d'anzianità, insomma, se preferiamo non avere riconoscenza. Avete infatti contribuito con il vostro lavoro all'affermarsi della cultura dei risultati basati su evidenze, più in generale della valutazione, in un paese in cui questo approccio stenta ad affermarsi. Sono tre righe, ma sono molto molto significative, secondo me, laddove appunto sembra che tutti gli altri sistemi di valutazione, perché comunque nella scuola per forza si valuta, non sono basati su evidenze, ma a capocchia, come si dice a Roma, no? Per cui alla fine proprio il sistema americano che tu citavi, che è quello dei test, che ormai vediamo i film, vediamo i telefilm, eccetera, mentre insomma forse sentire come si esprime uno studente o una studentessa potrebbe aiutare a capire il percorso che sta facendo. Vorrei rassicurare tutti i docenti circa il fatto che l'Invalsi per primo intende far valere diversi fattori che intervengono nel registrare i risultati delle prove, vale a dire mettere a punto indicatori in grado di evidenziare il peso che le diverse variabili di tipo socio-economico, socio-culturale, familiare possono avere nel concorrere a determinare quei risultati. Questo mi sembra è una cosa molto molto complicata, ma più che altro perché poi alla fine tutto si può fare in quest'ambito. Che cosa poi vai, che ne fai di questi di tutti questi indicatori e delle, diciamo, dei risultati che ne derivano? E dunque, accanto a questi aspetti, sono convinta vadano sviluppate modalità di riconoscimento delle pratiche didattiche più efficaci, anche in collegamento con quanto le scuole con autonome iniziative di autovalutazione abbiano già messo in atto. No, io non ho capito che cosa voglia dire, soprattutto nella seconda parte. Nella prima è che l'Invalsi dovrebbe appunto arrivare a decidere, cioè a valutare non solo appunto il livello di apprendimento di studenti e studentesse, ma anche quali sono quindi le pratiche didattiche, come le chiama, quindi andare a intervenire proprio nella libertà del docente e della docente. Per tale ragione ritengo fondamentale la funzione di critica ai suggerimenti costruttivi. Quasi uno allora, fa grazie. Suggerimenti distruttivi. E lei deciderà se sono tali, che in diverse sedi si sono sollevati qui rispetto alle prove Invalsi in relazione sia ai singoli aspetti che al loro collegamento con le indicazioni nazionali. E conclude: il mio impegno come presidente dell'Invalsi sarà teso principalmente alla costruzione di una relazione positiva con le scuole, nel senso di un ascolto autentico delle diverse posizioni. E vabbè, e qui fra un cinguettio di uccelli, uno stormir di fronde, un profumo di fiori, cioè dice sì, ditemi quello che mi volete dire sull'Invalsi. Del resto sono anni che all'Invalsi viene detto quello che nelle scuole si pensa di loro, ma poi uno devono essere costruttivi e poi noi li ascolteremo, dice l'Aiello, ma poi facciamo come ci pare. Insomma, mi sembra queste sono un po' tutte il destino di questi, quando si fanno organi consultivi, oppure di questo attento ascolto che poi si limita a quello quando. Sì, in effetti gli insegnanti e le insegnanti questo l'hanno capito, quindi io vedo persone intorno a me che fanno le prove Invalsi e le correggono senza alcuna convinzione. All'inizio c'era un po' di paura perché si temeva veramente che quello che c'era scritto fosse il vero futuro, cioè vincolare il proprio stipendio ai risultati Invalsi e quindi abbassare addirittura o alzare lo stipendio in base ai risultati del test Imbalzi. Evidente che questo anche la Fondazione Agnelli si è accorta che è una sciocchezza inaudita, perché tutti, cioè, sarebbe una gara a chi passa meglio il compito, il test, perché se mi dicono che per 100 euro, per 80 euro al mese, la mia classe deve risultare prima, io farò di tutto perché la mia classe risulti prima, e quindi diciamo questa strada è sbarrata. E la strada aperta oggi è quella invece dei dirigenti e delle dirigenti scolastiche, perché il confronto tra istituti, questo è una cosa che sta funzionando. La graduatoria di istituto, la graduatoria tra istituti in uno stesso territorio è molto importante, perché perdere o guadagnare studenti, strappare studenti alla concorrenza, è un'attività che dentro le scuole ormai da qualche anno è una delle fari. E quindi pubblicità sui tram, sugli autobus delle scuole statali, non so se bene sia detto, cioè, ormai non c'è più differenza tra scuola statale e scuola privata, paritaria, chiamiamola come vogliamo, perché c'è una corsa all'acquisto dello studente, della studentessa, quindi già dal POF, dai volantini, da Deplian, brochure, neanche fosse una crociera, andare nella propria scuola e ovviamente far risultare dal proprio sito, dal proprio volantino, che questa scuola è al primo posto della graduatoria Imbalzi, probabilmente è un fiore all'occhiello innanzitutto della dirigente scolastica, e poi questa è un'arma per convincere tutti quelli che stanno dentro la scuola a remare a favore della propria Imbalzi. Bisogna un po' smontare questa cosa. Sì, una parola sola su cose che forse già abbiamo detto, cioè quello che è evidente che queste persone hanno bisogno che passi e si diffonda una cultura basata sulla valutazione, e su una valutazione che sia misurabile e confrontabile, e quindi questi test di impronta anglosassone e così via. Per farlo, a me pare che loro abbiano deciso di introdurre questi test sostanzialmente nelle prove finali dei diversi cicli di istruzione, e già così alle medie, ma il rischio grosso, io credo, sarà nel momento in cui, e forse questo accadrà dall'anno prossimo, verranno inseriti nell'esame di maturità, perché non c'è niente di più facile che cambiare la didattica delle persone cambiando la prova finale a cui vanno sottoposti gli alunni, anche nell'ottica, diciamo così, delle pubblicità che le scuole si fanno, perché sappiamo bene che anche in quest'ottica i risultati che ottengono i ragazzi all'esame di Stato sono molto importanti e sono valutati, se non altro dai dirigenti e dagli insegnanti che fanno la didattica. In quest'ottica sappiamo tutti che in appendice ai libri di italiano delle medie e anche del biennio del liceo compaiono questi orribili raccolte di quiz a crocette, verso i quali molti dei nostri colleghi stanno piegando una parte della loro didattica. Sì, infatti uno degli aspetti più pericolosi del test Imbalzi, a mio parere, resta quello che in sintesi viene chiamato il teaching for test, cioè il fatto di non rinunciare all'istruzione e all'educazione per addestrare i ragazzi e le ragazze a mettere delle crocette. Ma di questo e di altro forse possiamo parlare con chi c'è dall'altro capo del telefono, un compagno dei COBAS che appunto hanno indetto lo sciopero di oggi, di domani e del 13. Pronto, ci senti? Sì, pronto, ci sono. Ciao. Ciao. Niente, insomma, ti abbiamo chiamato perché tu possa, insomma, aiutarci a parlare di queste tre giornate di sciopero e di lotta contro l'Imbalzi, ma anche, insomma, leggendo la piattaforma dello sciopero, anche, insomma, più in generale su alcune tematiche che riguardano il personale, insomma, lavoratori e lavoratrici della scuola. Sì, dunque, io credo intanto che sia estremamente importante che in questa mobilitazione contro gli Imbalzi siano stati coinvolti sia genitori, famiglie che studenti, perché è ancora molto sottovalutata a livello sociale la pericolosità di questi test, perché in realtà attraverso, diciamo, quella che dovrebbe essere l'operazione finale di un percorso educativo, cioè quella che è la valutazione, viene invece in qualche modo condizionato l'intero percorso valutativo, per cui invece che partire da quelli che dovrebbero essere i programmi, le attività in qualche modo sulle materie che devono essere svolte, e quindi dopo andare a fare una valutazione. Qui siamo arrivati al percorso inverso, cioè si dà una valutazione e quindi sostanzialmente, come quello è il metro di valutazione, tutte le programmazioni dovranno adeguarsi a far sì che quello sia alla fine il raggiungimento, diciamo, del percorso educativo. Quindi è proprio un capovolgimento che è di una gravità estrema ed è fra l'altro improponibile, perché non riusciamo a capire bene da quali menti possa essere partorita un'idea di questo genere, visto che si darà poi una valutazione positiva a quelle scuole che avranno risultati positivi e una valutazione negativa alle scuole che avranno un risultato negativo. Ma è evidente che una scuola che sta al quartiere Zen di Palermo non potrà avere i risultati di una scuola che sta ai Parioli di Roma, insomma, no? Cioè, è talmente palese questo. E invece che far sì che questa situazione diversa diventi un problema e quindi che si investa in quelle situazioni in cui c'è più difficoltà, perché c'è un disagio sociale decisamente, insomma, no, più evidente, si è scelta a strada opposta, insomma. È una linea di tendenza dentro la scuola che va proprio in inversione rispetto a tutto quello che era successo negli anni 60-70, proprio un capovolgimento autoritario e un tentativo di fare una scuola ad excludendum, nonostante tutti i discorsi sull'inclusione che vengono fatti. Sì, questo non è... ecco, io diciamo che credo che questa sia veramente la cosa più importante, cioè c'è proprio un'idea di scuola che sta dietro questo processo. Questa cosa è stata talmente capita che nei paesi che la stanno sperimentando da anni, che proprio in questi paesi, cioè a partire dagli Stati Uniti, sta cominciando una vera e propria rivolta contro questi test, perché gli insegnanti si sono accorti che hanno completamente smarrito il loro ruolo, gli studenti si sono accorti che è sufficiente imparare a risolvere i test per andare avanti, ma poi dopo si trovano completamente scoperti. Pensate che nei college universitari degli Stati Uniti sono ben 3 anni che gli studenti che arrivano dall'estero sono il numero maggiore degli studenti americani, perché quando vengono richieste un altro tipo di conoscenze, di competenze, chi è stato abituato e addestrato a fare solo i test soccombe. E l'altra cosa interessante è che gli Stati Uniti, che sono la patria appunto dei test e che hanno dentro la commissione internazionale che prepara i test di valutazione su tutti i paesi dell'OCSE, beh, nonostante questo, nonostante loro abbiano ben 27 nordamericani su 41 della commissione, nonostante adesso i loro studenti ai test, alla fine il livello, diciamo, di preparazione degli studenti americani è al 28° posto. Quindi metterci noi a imitare un modello che è già fallito e su cui chi ha puntato in qualche modo in questi ultimi anni il proprio percorso educativo sta facendo un ragionamento invece riflessivo e critico, è veramente, insomma, non riusciamo a capire qual è l'obiettivo, se non il solito, insomma, cioè dividere i lavoratori e imporre un certo modello di scuola che in questi anni era in qualche modo stato messo in discussione. Senti, per venire alle forme di lotta contro l'INVALSI, appunto quest'anno mi sembra sia il terzo, quarto anno, non ricordo, i COBAS lanciano appunto 3 giornate di sciopero, perché l'INVALSI si svolge in giornate diverse, nella primaria, nella secondaria, inferiore e superiore, quindi oggi hanno scioperato le materne e la primaria, poi domani le medie e il 13 le scuole superiori. Allora, aspetti, è leggermente diverso, adesso ti spiego un attimino. Allora, intanto, diciamo, i test vengono somministrati adesso alle seconde e quinte elementari, quest'anno sono stati tolti alle medie, quindi a scuola, cioè, rimane solo quello di terza media, dell'esame, media, insomma, esatto, finale. Mentre non c'è, diciamo, quello che veniva fatto all'inizio di maggio. E poi il 13 invece c'è nella secondaria superiore, nelle seconde classi della secondaria superiore. Quindi questi 2 giorni sono tutti e 2 nelle elementari, perché fanno oggi il test di italiano e domani quello di matematica. Quindi tutti e 2 giorni sono elementari, quindi 2 giorni di sciopero sono tutti e 2 nella scuola primaria, mentre il 13 è della scuola secondaria. Sì, scusa, ho fatto confusione io. Non è interessata. Appunto ci chiedevamo anche, insomma, perché in questi anni chi ti parla è un insegnante, insomma, e anche chi hai sentito prima o comunque una lavoratrice della scuola, insomma, c'è il rischio che i nostri colleghi sentano queste date come rituali. A questo punto lo dico, insomma, senza nascondermi dietro un dito, no? Nel senso, e quindi diventa complesso, insomma, riproporre la giornata di sciopero, il non sottoporsi alla somministrazione, alla correzione. Ovviamente, appunto, ti ripeto, ti parlano insegnanti che questo lo fanno, però insomma che iniziamo anche a sentire la difficoltà di portare avanti questa lotta. E quindi su questo volevamo chiedere la tua opinione. Sì, questo è vero, perché diciamo all'insofferenza generalizzata o comunque estremamente diffusa, cioè le persone nel mondo della scuola convinte che queste siano come dire momenti didattici validi, non sono facili da trovare, insomma. Però è anche vero che si fa come un'attività di routine, vabbè, mi tocca farla e la faccio in buona sostanza, no? Cioè, c'è questo tipo di alla fine di ragionamento, pur non credendoci. Però c'è chi ha cominciato a condizionare la propria attività, cioè le case editrici arrivano nelle scuole e vendono libri di addestramento ai test, i nuovi sussidiari sono concepiti con prove invalsi ogni tot pagine, in modo proprio da addestrare, quello che dicevamo prima, insomma, piano piano i bambini, gli studenti, a ragionare in quel modo. Quindi è proprio un modo estremamente surrettizio di far passare un messaggio educativo. Questa cosa ancora non c'è, perciò una presa di coscienza diffusa nel mondo della scuola del pericolo di tutto questo. C'è appunto chi è convinto, ma sono pochi, c'è una sostanziale indifferenza e insofferenza nella maggioranza dei casi, e c'è un nucleo invece che è convintamente contrario a tutto questo. Quindi è evidente che poi uno sciopero per bloccare l'invarsi è anche uno sciopero che di per sé deve essere frammentato, che non è possibile fare diversamente. Però ci sono scuole che sono riuscite a bloccarle completamente. Io l'anno scorso non stavo in questa scuola, stavo in un'altra scuola, ho sciopero tutti e le prove sono saltate. Quindi è anche vero che una volta lo sciopero può anche essere il raggiungimento dell'obiettivo nel momento stesso in cui si fa quell'azione. Cioè tu fai lo sciopero non è perché stai chiedendo qualche cosa, ma perché di fatto con quell'azione stai già invalidando quello che tu non vuoi fare. Per cui da questo punto di vista è uno sciopero che può anche attirare chi però ha raggiunto questa consapevolezza del danno estremo che possono provocare questi quiz. Qui sicuramente è un lavoro ancora molto lungo, e poi ecco, cioè, con tutta questi diciamo panegirici che vengono fatti rispetto al merito, è chiaro che c'è un rimbambimento generalizzato su questo discorso, per cui non è facile farlo. Lo sciopero sì, da questo punto di vista diventa ulteriormente difficile, perché non solo sono solo i COPAS che lo fanno, nonostante tanti altri dicano che sono contrari, hanno aderito anche altre due associazioni sindacali. Però nei fatti, nelle scuole, chi ha portato avanti questo discorso da mesi, da anni, e insomma si fa carico poi dell'informazione e del lavoro, sono i COBAS. Non so se vuoi aggiungere ancora qualcosa, se no insomma noi passiamo a sentire un'altra compagna, sempre dei COPAS, perché sì, ci racconti la mobilitazione di questa mattina. Sì, va bene, ecco, vi lascio loro, perché per problemi di mezzi di trasporto questa mattina non sono riuscito ad andare poi al sit-in, e quindi è bene invece, perché è stata una cosa molto interessante come è successo stamattina, e quindi è bene anche farla raccontare. Sì, certamente. Noi ti ringraziamo per la partecipazione. Io vi ringrazio a voi per l'accoglienza. Va bene. Ciao. Ci sentiamo. Ciao, ciao. Con noi bastardo il cielo pagherai, e tutto che chiediamo è sangue duro. E quindi, come annunciato, ancora in voce l'ora di buco, all'altro capo del telefono, un'altra compagna di Covas. Pronto, ci senti? Sì, vi sento, ciao a tutti. Ciao, e appunto abbiamo parlato degli scioperi delle tre giornate in generale, ma adesso, visto che la prima si è già svolta, vorremmo raccontare con te, insomma, quello che è successo stamattina davanti al Ministero. Dunque, oggi al Ministero la partecipazione è stata molto buona, soprattutto da parte dei genitori e dei bambini, che erano molto numerosi. E rispetto a questo io ho ascoltato anche quello che voi avete detto poco fa per radio, e rispetto allo sciopero, se può essere, diciamo, una sorta di rituale. Io credo che, diciamo, la grossa forza della scuola elementare sono comunque i genitori, che sono assolutamente ancora molto recettivi al problema, e si è visto oggi, insomma, con la loro partecipazione, portando i bambini. Quindi la manifestazione è stata molto allegra, e la cosa, diciamo, carina è stata che abbiamo drammatizzato insieme le prove in balzi. Che cosa vuol dire? Abbiamo portato una trentina di copie delle prove di seconda di italiano, di seconda elementare di italiano dello scorso anno, e abbiamo provato a farle insieme. Ognuno di noi ha interpretato un personaggio, dal bambino, dalla maestra, dalla preside, e questo è servito un po' a mettere in rilievo, insomma, quali sono le criticità rispetto anche a come le modalità, la modalità proprio di svolgimento delle prove, che i bambini non possono chiedere aiuto, che non possono andare al bagno, che durano solamente 45 minuti, per cui un tempo assolutamente insufficiente, diciamo, per svolgere qualsiasi compito che richieda una certa riflessione, per bambini che poi hanno 7-8 anni, insomma. E poi rispetto anche al contenuto delle prove stesse, perché diciamo che ci sono delle domande che non hanno una risposta univoca, possono avere più risposte da parte dei bambini, e quindi poi si penalizza quello che è il pensiero divergente, cioè e questo è stato molto molto interessante e molto costruttivo. E siamo stati anche ricevuti, e siamo andati su una delegazione, una mamma, sono salita anch'io, e due collaboratori scolastici e un altro nata, e lì poi più o meno le solite cose, cioè ci hanno ricevuto degli amministrativi, per cui mancava la parte politica, e loro dicono: ma noi siamo completamente d'accordo con voi, però che volete, abbiamo anche un grosso senso di frustrazione, perché poi le indicazioni che abbiamo sono altre. Poi noi, tra l'altro, non abbiamo in delegazione non abbiamo parlato solo di testi invalsi, ma di tutta la situazione, appunto, che c'è nella scuola pubblica, a partire dal taglio agli organici, all'organico di sostegno, al taglio ai collaboratori scolastici, e quindi alla criticità in cui, diciamo, la sofferenza in cui sta la scuola pubblica, a fronte poi di una presunta richiesta di valutazione, appunto, degli apprendimenti, insomma. Cioè, da una parte ci mettono in condizioni, io sono un insegnante, di lavorare in condizioni difficilissime, e dall'altra parte si pretende, insomma, poi di valutare l'andamento, appunto, degli apprendimenti dei bambini, che poi con i test è una modalità assolutamente inadeguata. Io comunque sono molto contenta di come è andata oggi la manifestazione. Io sono convinta che, appunto, facendo un buon lavoro prima, ovviamente, delle prove, quindi parlando con i genitori, spiegando, cioè se c'è la consapevolezza, i genitori sono molto ricettivi. Avevamo genitori che, insomma, venivano da Prima Valle con i loro figli di classe seconda, che non sapevano neanche fino a un mese e mezzo fa cosa fosse l'invalsi e cosa fossero le prove invalsi. L'insegnante ha fatto un buon lavoro, e oggi stavano davanti al Ministero. E quindi, insomma, è chiaro che gli insegnanti hanno un grosso ruolo in tutto questo, cioè non basta scioperare, sicuramente lo sciopero è un diciamo, una grossa arma che noi abbiamo proprio per far fallire le prove, ma poi la mobilitazione deve coinvolgere anche i genitori e bisogna lavorarci, questo, di questo io ne sono convinta. E quindi domattina si ripete, insomma, perché appunto... domattina il presidio non lo faremo, anche se, perché non una nuova giornata di sciopero, non potevamo chiedere appunto alle famiglie di venire due giorni, perché si correva il rischio anche che con due giorni, diciamo, la partecipazione magari si sarebbe dimezzata, no? Chi avrebbe potuto scegliere il 6 o il 7, abbiamo preferito come Cobas puntare tutto sul 6, sul primo giorno. Lo sciopero sì, ci sarà anche domani, io infatti sono in sciopero sia oggi e sarò in sciopero anche domani, sono in sciopero oggi malgrado io stamattina non fossi coinvolta nelle prove perché il mio turno era di pomeriggio, ma è una cosa in cui credo, volevo partecipare alla manifestazione, per cui due giorni di sciopero. E sì, appunto ti ringraziamo anche per la partecipazione, insomma, a questa trasmissione. Poi appunto ricordiamo, domani è sciopero e poi per le scuole superiori il 13. Però volevo aggiungere che lo sciopero il 13 è anche per le secondarie di primo grado, per le medie, anche se gli insegnanti di scuola media non sono il 13 coinvolti nelle prove, però insomma possono scioperare, secondo me dovrebbero comunque scioperare, anche perché lo sciopero sì in primis ha le prove in valsi, ma ci sono nella piattaforma, ci sono tutte le tematiche che affliggono la scuola pubblica e quindi insomma io invito anche gli insegnanti di della scuola media a scioperare il 13 anche se non sono coinvolti con le prove. Bene, noi per ora ti ringraziamo e poi insomma noi continueremo a parlare di questo argomento. Grazie a voi. Ciao. Ciao a tutti. Ciao. E, insomma, siamo arrivate anche in fondo alla trasmissione di oggi volevo insomma in chiusura anche, come dire, dare uno sguardo anche un pochino più allargato. Ricordiamo che stamattina c'è stato uno sciopero, una manifestazione molto partecipata dei dipendenti del Comune di Roma, ricordiamo anche che è una lotta che continua, insomma, e che riguarda settori, come dire, se vogliamo essere un pochino corporativi, anche molto vicini, nel senso si parla di salvare le biblioteche di Roma, per esempio, e giovedì c'è un'iniziativa sul Campidoglio, perché insomma la rete delle biblioteche di Roma è una rete che è a forte rischio in questo momento. Nel 2014 è stato tagliato già il bilancio delle biblioteche da 21 milioni a 15, e quindi non è possibile che vengano mantenuti i servizi che ci sono fino adesso con questi tagli. Parallelamente, insomma, viene messo a forte rischio il posto di lavoro e il salario dei dipendenti sia interni di Roma Capitale che quelli, insomma, delle società in housing che per Roma Capitale lavorano. Volevo ricordare questo perché non mi sembra che sia così lontano da questo spazio radiofonico, e poi insomma invitando tutte e tutti allo sciopero, penso che possiamo chiudere qui. Abbiamo un piccolissimo problemino, quindi comunque vi ricordiamo i nostri contatti, perché l'abbiamo fatto in inizio di trasmissione: 06 49 17 50 è il nostro storico numero di telefono, www.ondarossa.info la nostra mail, mentre per scrivere alla nostra trasmissione ora di buco @ondarossa.info. Abbiamo anche un blog, ma non mi ricordo come si chiama, ora di buco noblogs.org, esatto, dove trovate comunque i podcast delle trasmissioni precedenti che via via aggiorniamo e che trovate comunque anche sul sito. Lavoro. Hai tolto trucioli dalla scocca, è il tuo lavoro di catena che curva poco a poco la tua schiena. Neanche un minuto per ogni auto. La